Allora, Ave Maria a tutti. Ecco, questa sera affronteremo lo splendido testo del Libro dei Salmi, che è il secondo dei libri sapienziali, dopo il Libro di Giobbe. Vediamo nella slide la famiglia di Nazareth, perché la Sacra Famiglia di Nazareth, perché Gesù, Giuseppe e Maria, come tutti gli ebrei, hanno pregato con i salmi, perché gli ebrei pregavano e pregano quasi esclusivamente con i salmi, così come del resto penso che sappiate che i salmi costituiscono la preghiera ufficiale della Chiesa Cattolica. E quindi, ecco, approfondire questo testo, infatti il sottotitolo che potete vedere, se riuscite a vederlo, è la preghiera pubblica e ufficiale dei figli di Dio, ecco, ci fa comprendere l'importanza di questo, dell'argomento che tratteremo con l'aiuto di Dio e dell'Immacolata questa sera. Ora, una breve presentazione sintetica del Libro dei Salmi. Qui vedete nella slide Davide con in mano una cosa che assomiglia alla cetra. Allora, infatti, salmo viene dal greco psalmos, che letteralmente tradotto significa canto da eseguirsi con accompagnamento musicale. Cioè, i salmi fondamentalmente sono dei canti accompagnati tradizionalmente con gli strumenti in uso nell'Antico Testamento, fondamentalmente la cetra, ma anche altri strumenti, di cui per esempio si parla nel Salmo 150, i timpani, i sistri, i flauti, le corde, eccetera, e costituiscono un gruppo, un corpus di 150 che è denominato complessivamente Salterio. Il numero 150 è un numero sacro. Voi dovete sapere, per esempio, questo è per una digressione, per pura cultura personale, che il Santo Rosario nella sua struttura tradizionale è composto di 150 Ave Maria ed era chiamato il Salterio degli ignoranti. Dato che le persone che non sapevano leggere e scrivere non potevano leggere i salmi, attraverso la recita del rosario intero sostituivano la recita dei 150 salmi, che nel breviario antico, che il sottoscritto con molta fatica prega, ogni settimana si recitano tutti i 150 i salmi distribuiti nelle varie ore canoniche. Mentre dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, siccome è passata un po' di gente la voglia di pregare, i 150 salmi si recitano in 4 settimane, cioè in un mese, quindi è un po' più soft la faccenda. È impressionante seguire le successive riforme della preghiera ufficiale della Chiesa, sicuro aspettante soprattutto ai preti e alle suore, si pregava sempre di meno. Hanno sempre rosicato, fino a giungere, insomma, alla disciplina attuale, insomma, che per dire lodi, se uno le recita, non le canta, ci vogliono 5 minuti, e per dire espio ci vogliono 5 minuti, insomma, 6, 7, proprio massimo, se uno è proprio... Vabbè, comunque, lasciamo aperte. Allora, gli autori del Libro dei Salmi, chi sono gli autori? Gli autori sono vari, diciamo che il Salterio tradizionalmente era stato attribuito a Davide. Effettivamente, adesso hanno fatto un sacco di studi, quanto siano attendibili o meno non si sa, comunque è certo che alcuni salmi non sono di Davide, proprio perché nell'intestazione recano un autore differente. Dovete sapere che se voi aprite il Libro dei Salmi, dopo lo faremo, adesso dopo la presentazione chiudiamo le slide, apriamo le Bibbie, rileggiamo bene alcuni salmi, vedete che nel sottotitolo c'è l'autore di Davide, oppure di Salomone, oppure uno vedremo che è anche di Mosè, quindi non sono tutti di Davide, però quasi la metà, 73 su 150, regolano l'intestazione di Davide, quindi sicuramente almeno la metà dei salmi del Salterio sono attribuiti e sono stati composti dal re Davide. Ora, il Salterio è tradizionalmente diviso in 5 libri, non affronto qui alcune questioni perché tra il testo ebraico, detto tecnicamente il testo masoretico, e la versione greca, che è la 70, e la Vulgata, diciamo che il numero dei salmi è sempre lo stesso, però gli accorpamenti sono differenti. Tanto non penso che mi interessi un granché di queste cose, tanto abbiamo la Bibbia, c'è, seguiamo la numerazione dei salmi che sta lì, quindi non stiamo facendo un corso di esegesi in questi nostri incontri, no? Però la divisione del Saltiero in cinque libri è bene esporla, quindi dal Salmo 1 al 41 ci sono salmi che sono quasi tutti di Davide, il primo libro, dal 42 al 72, che è il secondo libro, ci sono 18 salmi di Davide, mentre il 72 è di Salomone. Dal 73 all'89 c'è un gruppo misto, diciamo così, di salmi, di cui soltanto l'86 certamente è di Davide, il resto sono autori vari. Dal 90 al 106, che è il quarto libro, ci sono due salmi di Davide, mentre il 90 è di Mosè in persona. Mentre nell'ultimo libro, dal 107 al 150, abbiamo 15 salmi di Davide, mentre 127 di Salomone, è di Salomone. Ok, detto questo, proseguiamo e vediamo le tipologie dei salmi. Adesso qui, su questa slide, ci fermiamo un po'. Vediamo sempre San Giuseppe con Gesù, perché Gesù si è degnato di voler, quanto alla sua natura umana, tra virgolette, molto tra virgolette, imparare la preghiera liturgica da San Giuseppe, prima ancora che dalla Madonna, perché gli ebrei, a differenza di noi, sono i papà che insegnano la fede a pregare ai figli, non le mamme, perché insegnare la fede ai figli è un onore, non una fonte di vergogna come è oggi, e quindi, essendo un onore, gli uomini se lo acchiappano, gli uomini ebrei. Invece gli uomini occidentali sono un po' scemotti, e quindi, siccome è un disonore e quindi è roba che non conta, lasciano questa incombenza, se le fanno, alle donne. Siccome oggi non lo fanno più neanche le donne, abbiamo le generazioni di debosciati, che forse qualcuno di noi è anche appartenuto a questa generazione, speriamo di no. Comunque, tipologie di salmi. Io, allora, state attenti che vi ho riportato qualche numero, e qualcuno di questi poi li leggeremo e li commenteremo, ma è una esemplificazione. Quindi, per esempio, i salmi di lode e di ringraziamento, la stragrande maggioranza dei salmi sono di lode e di ringraziamento. Tenete presente che il libro dei salmi è molto importante, perché Dio stesso che ha insegnato all'uomo a pregare, mettendogli sulla bocca le parole con cui vuole essere pregato. Vedremo in tutte le circostanze della vita. La lode e ringraziamento ha una, diciamo così, percentuale preponderante. Sono tantissimi salmi di lode e di ringraziamento, tanto è vero, come sapete, c'è un'ora canonica, una liturgia che si chiama le lodi. Qui avete dei numeri che sono esemplificativi. Poi ci sono i salmi di supplica e di domanda, anche questi sono abbastanza numerosi. Cioè, tutte le forme di preghiera possibili sono racchiuse nei salmi. Quindi, se uno vuole, che cos'è la preghiera? Basta che vede tutti quanti i salmi e fa uno splendido corso di quello che è la preghiera, perché la preghiera è anzitutto lode e ringraziamento, la preghiera è anche supplica e domanda, la preghiera è anche effusione del proprio cuore dinanzi a Dio, soprattutto quando ci sentiamo, per qualunque motivo, nella sofferenza, nell'angoscia, nel dolore, nella prova. Sono tantissimi i salmi di lamentazione e di sfogo dell'angoscia. Il 142, con la mia voce al Signore grido aiuto, supplico il Signore davanti a Lui e fondo il mio lamento, al suo cospetto sfogo la mia angoscia. Lo leggeremo poi, forse, è testuale. Oppure il Salmo 21, quello che ha recitato Gesù in croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Poi, ci sono dei salmi sapienziali. Qui c'è un errore, è stato scritto qua. Molto belli, per esempio il lunghissimo Salmo 119, un salmo lunghissimo, il più lungo di tutti, oppure il Salmo 139, Signore tu mi scruti e mi conosci, oppure il Salmo 14, il 53, lo stolto dice Dio non esiste. Quindi sono dei salmi che ispirano la sapienza e che sono, diciamo così, dei salmi che tendono a favorire la meditazione. La meditazione è una forma altissima di preghiera. Sapete che tutti i santi insegnano che non si diventa santi se non si impara a fare l'orazione mentale. Chiunque di voi vuole fare i passaggi, diciamo così, qualitativi, quindi vuole impegnarsi in un cammino per la santità, deve per forza, se non se ne parla nemmeno, imparare a fare l'orazione mentale. E se non fa l'orazione mentale, santo non ci diventerà mai, questo lo dicono tutti i santi che ci sono diventati. Ecco, tra i recenti, i grandi antesignani sono Sant'Alfonso e San Pio. Poi molto belli sono i salmi che raccontano le opere di Dio, i salmi che sembrano dei memoriali, quindi in alcune circostanze, soprattutto in circostanze, il salmista e quindi mette a disposizione del popolo di Dio il ricordo delle opere compiute dal Signore. Possono essere le opere che ha fatto nella creazione, mi pare che è il Salmo 104, oppure può essere la storia della salvezza, mi pare che è il 106, che narra la storia di Israele, tutto quello che Dio ha fatto con il suo popolo, tutta la storia salvifica. Aspetto fondamentale, perché narrare le opere compiute da Dio, ha scritto mi sembra Sant'Agostino, significa lodarlo, e anche noi è molto importante che ricordiamo le opere di Dio, anche quelle fatte nella nostra vita, e che sappiamo riconoscerle, perché questo è un grandissimo antidoto contro la disperazione. Ecco, ci saranno due salmi, ne parleremo, che sono i salmi imprecatori. Detto fra me e voi, nel nuovo breviario, dopo la riforma liturgica, questi due salmi non li trovate, sono stati tolti, così come sono stati tolti con le forbici, quindi pensate quale grande cultura biblica, fammi sta zitto che stiamo pure a registrare. Allora, sono stati tolti questi due salmi, e in alcuni salmi che contengono delle imprecazioni, cioè spezza i denti ai miei nemici, proprio espressioni forti, allora dice, hanno preso le forbici e le hanno tagliate. Ma che te tagli? Le hanno tagliate perché dicono, beh, possibile che con il Nuovo Testamento si possano pronunciare queste parole? Come la mettiamo? Che dite voi? Non è che Dio, quando ha ispirato questi salmi, non sapeva che sarebbe esistito il Nuovo Testamento. Se ce li ha messi, un motivo ci sta. E penso che, tanto è vero che nel breviario antico, quando c'avevano un pochino più di fede di oggi, ci sono. Ecco. E sono terribili questi due salmi, all'83 e al 109. Dopo uno dei due ve li faccio leggere. Uno li legge e dice: ma come? Ma Gesù ha detto: amate i vostri nemici, perdonate. Come facciamo a pregare con queste cose? Adesso sto facendo un po' l'avvocato del diavolo, un pochino le cose che stanno. Ecco. Però ci sono queste cose. E vedremo come hanno risolto questa apparente, come tutte le aporie padre della Chiesa. E poi ci sono i salmi che esprimono la ricerca e il desiderio e l'amore di Dio. Salmi meravigliosi, stupendi, insomma. Tipo, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, oppure il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi, oppure come una cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia nella te, oh Dio. Quindi vede che tutte le situazioni esistenziali in cui l'uomo può venirsi a trovare si trovano espresse nei salmi. Che sono davvero una raccolta di preghiera completa. Se uno pregasse bene i salmi, avrebbe finito il compito della santa orazione. Detto questo, prima di passare alla lettura di alcuni brani scelti, vediamo qualche altra classificazione che è comunque stata proposta. Alcune sono tranquilli, ci sono i salmi regali messianici, cioè i salmi che annunziano l'avvento del Messia, sono anche quelli citati nel Nuovo Testamento. Il salmo numero 2, per esempio, io l'ho costituito mio sovrano su Sio, mio santo monte, chiedi a me, ti darò in possesso le genti, eccetera. E il salmo 110, quello che cita esplicitamente Gesù nel Vangelo, dice: il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Vi ricordate la disputa con i farisei? Gesù prende questo salmo e dice: Che cosa ha scritto Davide? Dice il Signore al mio Signore, sempre con la S maiuscola. Il Signore sarebbe Yahweh, il mio Signore sarebbe il Messia. Allora, quando Gesù cita questo salmo, dice: scusate, voi dite che il Messia è figlio di Davide, giusto? Sì. E Gesù dice: ma se è suo figlio, come mai lo chiama Signore? Perché dice il Signore al mio Signore, che sarebbe il Messia, cioè suo figlio. Chiaramente cita questo brano per illuminarli, ma tanto è fiato sprecato, sul fatto che il Messia era il figlio di Dio. Quindi se Davide chiama suo figlio mio Signore, vuol dire che il Messia non è semplicemente suo figlio, cioè un grande re, ma il figlio di Dio, cioè io. Ma tanta fatica sprecata con quelli là. Poi ci sono i salmi alfabetici, cioè se voi, poi casomai lo prendiamo il 119, quello molto lungo, che sono strutturati secondo le lettere dell'alfabeto ebraico: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Et, eccetera, eccetera, tutto quanto l'alfabeto ebraico. Non è l'unico, ma è l'esempio più importante. Poi ci sono i cosiddetti salmi ascensionali, sono uno più bello dell'altro, sono tra i miei preferiti, che sono, si chiamano ascensionali perché sono i salmi che cantavano gli ebrei quando compivano i pellegrinaggi a Gerusalemme. Quindi mentre salivano a Gerusalemme: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, dove i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. È il primo, quindi è quello proprio l'overture. Poi ci sono i salmi alleluiatici. Voi sapete che in ebraico alleluiah significa hallelu, è dal verbo hallel che significa lodare, yah è il diminutivo di Yahweh, quindi alleluia significa semplicemente, lo diciamo tutte le messe, no? Alleluia, alleluia, adesso quaresima no, ma però, ecco, che significa alleluia? Lodate il Signore significa testualmente, hallelu che è l'imperativo del verbo hallel e yah che è il diminutivo di Yahweh. Quindi ci sono dei salmi alleluiatici, dove c'è il grande hallel. C'ha scritto pure un bellissimo canto Monsignor Frisina: lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia, tutto quanto così. Quindi lodate il Signore, lodate il Signore, lodate il Signore perché eterna è la sua misericordia. E poi c'è il gruppetto dei salmi con il piccolo Hallel, che vanno dal 113 al 118. E poi queste sono le classificazioni, diciamo, proposte da attendibili da alcuni esegeti, perché poi prima di andare a leggere, che dobbiamo fare presto, alcuni salmi, qualche piccola riflessione sul complesso dei salmi. Quindi, innanzitutto noi dobbiamo ponderare il fatto che Dio ci ha messo in bocca le parole con cui vuole essere pregato, cioè Dio stesso che si è incaricato di insegnare a pregare il suo popolo. Questo l'ha fatto sempre, per il Padre nostro, la preghiera che ha insegnato Gesù. L'Ave Maria, la prima parte dell'Ave Maria è parola di Dio, perché Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, sono le parole dell'angelo. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sono le parole di Elisabetta. Solo l'ultima parte, diciamo così, sarà scritta dalla Chiesa. Il gloria al Padre si trova testualmente nelle lettere di San Paolo, la dossologia, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quindi, e così la preghiera da dire in tutte le circostanze della vita è stata messa da Dio stesso in bocca all'uomo, cioè lui ci ha rivelato attraverso il Salterio come vuole essere pregato. Per questa che questa preghiera è stata sempre ritenuta in grandissima considerazione dai membri del popolo di Dio, dagli ebrei nell'Antico Testamento e ora nella Chiesa Cattolica. Perché chiaramente se Dio ispira queste cose vuol dire che vuole essere pregato così. Ora, nei salmi c'è tutta la nostra vita, perché tutte le situazioni esistenziali in cui l'uomo venisse a trovare sono contenute nei salmi. Se uno ha la voglia e anche la grazia, oltre che la pazienza, di leggere tutti i salmi, sicuramente si innamorerà di alcuni salmi. Io ho i miei preferiti. Ci sono 4-5 salmi che quando li prego sono assolutamente i miei preferiti, altri meno. È la norma della nostra preghiera, quindi come disse Sant'Agostino per il Padre Nostro, Sant'Agostino commentando il Padre Nostro disse: noi possiamo anche rivolgersi a Dio con altre parole, ma dobbiamo chiedere le stesse cose, Quindi, perché il Padre nostro è la norma della precisione, le sette cose che noi dobbiamo e possiamo chiedere a Dio. Quindi, se io chiedo a Dio, fammi comprare la Mercedes, non è preghiera gradita, perché è un po' più che dacci oggi il nostro pane quotidiano. D'accordo? Quindi, se io chiedo a Dio, fulmina quello che mi ha fatto del male, non è preghiera gradita, perché ha detto rimetti i nostri debiti come li rimettiamo ai nostri debitori. D'accordo? Così vale per quanto riguarda i salmi. Noi non possiamo, come dire, fare una preghiera che sia contraria allo spirito di ciò che i salmi ci insegnano. La Chiesa ha insegnato che dopo la Santa Messa, la preghiera dei salmi, quindi la liturgia delle ore, è la forma più alta di preghiera, perché è la preghiera liturgica, perché quando si pregano i salmi non è una preghiera privata, ma è la preghiera del corpo mistico di Cristo, cioè è tutta la Chiesa. Cioè, quando io prego i salmi, non sono io che prego, sono io che mi unisco alla preghiera, attenzione, ma non della Chiesa, cioè della Chiesa come Cristo totale, cioè della Chiesa capo e corpo, cioè è Cristo che prega, dice Sant'Agostino, con noi e in noi, quando preghiamo con i salmi, e Cristo prega con la Chiesa, suo corpo, e nella Chiesa. Quindi, se volessi, per esempio, pregare con i salmi o fare una preghiera privata è la stessa cosa, per farvi capire chi è un po' pratico col diavolo, che fare un esorcismo o fare una preghiera di liberazione. Cioè, quando io prego i salmi, mi unisco alla preghiera pubblica ufficiale della Chiesa, quindi è ovvio che ho tutta la Chiesa che prega con me. Se io faccio una preghiera privata, sono io che prego. Stessa cosa, l'esorcismo, per esempio, non può farlo qualunque prete, possono farlo soltanto i preti autorizzati, perché quando uno pronuncia il sacramentale dell'esorcismo, quella è una preghiera ufficiale, quindi è Cristo con la Chiesa che sta pregando con te e in te. Invece una preghiera di liberazione può farla qualunque persona in forma privata, per esempio anche per se stessa, e può farla qualunque prete anche su una persona che abbia problemi col diavolo, d'accordo? Non però un esorcismo in senso stretto. Quindi con essi ha pregato Israele, ha pregato Cristo, e con questi prega la Chiesa, capo e corpo. State attenti, perché se i salmi sono la forma più alta di preghiera, e quindi che nessun'altra forma di preghiera ne uguaglia l'eccellenza e la dignità, bisogna fare attenzione, perché c'è il rosario poi. C'è il rosario? Il rosario non è preghiera liturgica, d'accordo? È preghiera devozionale. Tuttavia, pur non essendo il rosario, come dire, da un punto di vista oggettivo, più grande della liturgia delle ore, perché ovviamente non è la preghiera ufficiale, anche se composta dalla parola di Dio, però la potenza del rosario, è detto di qualcuno, presso il cuore di Dio, è più grande, non perché sia più grande da un punto di vista oggettivo, ma perché al momento che il rosario, pur essendo una preghiera privata, però sale a Dio attraverso la mediazione della Madonna, a cui Dio nulla rifiuta, le grazie che si possono ottenere, a detta di qualche autore, possono essere superiori. D'accordo? Quindi vedete che non sempre ciò che è più grande può essere anche più efficace. Chiaramente, come ogni forma di preghiera, perché la preghiera sia tanto più efficace presso il cuore di Dio, deve essere recitata digni, attente, ac devote, cioè degnamente, attentamente, devotamente. Degnamente vuol dire con la percezione di stare alla presenza di Dio, e quindi con una forma composta, anche esteriore. Attentamente vuol dire cercando di stare attenti a quello che si dice e a chi è colui con cui sto parlando e cosa sto dicendo, e devotamente vuol dire possibilmente accompagnando con l'affetto e con l'attenzione e con la devozione del cuore la preghiera che si sta dicendo. Ora, a questo punto andiamo a vedere qualche salmo nel dettaglio. Quindi accendiamo la luce, prendiamo la Bibbia. E andiamo a vedere alcuni tipi di salmi che abbiamo già visto nella classificazione, perché qualcuno è bene leggerlo. Per esempio, i salmi di lode e di ringraziamento. Io molto democraticamente vi leggerò alcuni tra i miei preferiti. Ecco, quindi. Allora, tra i salmi di lode, per esempio il salmo 84, che è un salmo proprio stupendo, proprio. Questi si possono leggere senza commento. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Stupendo. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Uno che legge questo salmo subito innamora dell'Altissimo, no? Anche il passero trova la casa, la rondi nel nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Poi ancora, beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Il viaggio della santità, questo è. Qualcuno si è divertito dicendo che la parola chiave, e c'ha ragione, dopo lo vedremo, del libro dei Salmi, sapete qual è? Beato, cioè felice, cioè la preghiera, che i Salmi chiaramente vivono in maniera somma ed eccellente, non è altro che un cammino di felicità, perché stare con Dio, ma lo sentiremo subito, per me un giorno nei tuoi atri, qui c'è scritto, è più che mille altrove. Questo è un salmo stupendo. Passando per la valle del pianto la cambiano una sorgente. Passando per la valle del pianto la cambiano una sorgente, sono le opere di Dio. Cresce lungo il cammino il suo vigore, cioè più uno cammina e più gli vengono i muscoli spirituali, finché compare davanti a Dio in Sion. Questo chiaramente era un canto di pellegrinaggio, era uno dei canti che venivano cantati, perché per gli ebrei, a differenza di quando andavano a Gerusalemme, che c'era il Tempio, mica so come noi quando andiamo in chiesa tra poco, con l'avvento dell'estate ricominciamo le guerre puniche, non era così, loro erano coscienti di andare alla presenza di Dio, no? E poi, Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché solo è scudo il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, quindi la grazia sulla terra e la gloria in paradiso, e non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Questo secondo me è uno dei più belli in assoluto. Quale salmo? 84. Poi ci sono i salmi di supplica e di ringraziamento. Per esempio il salmo 6, il salmo 7, il salmo 17, ma ce ne sono tantissimi anche di questi. Possiamo leggere quello che a me piace di più, sì, credo che sia il 141. Sentite che bello, Signore a te grido, accorri in mio aiuto, ascolta la mia voce quando ti invoco. Quindi vedete proprio una supplica, un'invocazione, una domanda. Come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera. E poi si va al testo della preghiera. Questo, mi raccomando, questo è un salmo che devono ricevere soprattutto le donne. Adesso capirete subito perché. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca. Sorveglia la porta delle mie labbra. Come le donne sono notoriamente chiacchierone. Non lasciare che il mio cuore si piega al male. Vedete che le preghiere gradite a Dio, bisogna pregare che non facciamo i peccati e compi azioni inique con i peccatori, che io non gusti i loro cibi deliziosi, perché il peccato c'ha il suo fascino del principe tenebroso, dicevo oggi in radio. Allora, guardate che cosa bisogna chiedere al Signore: mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri. Quindi da cercare qualcuno che mi suona, d'accordo? No, chi mi dice: ma quanto sei bravo, ma quanto sei bello, ma non ti preoccupare, questo peccato non è niente, quest'altro non è niente, ma che stai a Dio, ma pensa, fatte mezza Ave Maria e ti do la soluzione. Quindi no, mi percuota il giusto, il fedele mi rimproveri, purché l'olio dell'empio, l'empio, bruttissimo, non profumi il mio campo. C'è il pio, poi lo vedremo nel Salmo 1, e c'è l'empio, sono due categorie di persone, c'è il pio, che sono i seguaci di Padre Pio, e c'è l'empio, che sono i seguaci, non ci sono altre persone. Tra le loro malvagità si continua la mia preghiera, ma sono tutti cattivi, e io continuo a pregare. Ecco. Poi qui c'è un cambio, vedete, perché ogni tanto cambiano, perché quei generi, quindi la supplica, il ringraziamento, a volte sapete che Dio non si lascia imprigionare dai nostri schemi, a volte in un salmo ci sono dei miscugli, quindi ci sta un po' di supplica, un po' di lode, un po' di ringraziamento, un po' di sapienza. Dalla rupe furono gettati i loro capi, che da me avevano udito dolci parole. Come si fende e si apre la terra, le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. Questa è una profezia sulla sorte segnata degli empi. A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, proteggi la mia vita. Preservami dal laccio che mi tendono, dagli agguati dei malfattori. Gli empi cadono insieme nelle loro reti. Questo è un tema tipico dei salmi, sono gli empi che stanno sempre a tramare e a tendere trappole, insidie e inganni, perché noi ci caschiamo dentro. Quindi gli empi sono i demoni e i loro collaboratori. Ma chi ci cade dentro? Loro. Ma io passerò oltre incolume. Ecco, poi ci sono i salmi di lamentazione e di sfogo dell'angoscia. Ce n'è uno che è il 142, magari qui ne leggiamo un paio. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. Guardate, questo è molto bello, dice, io sto nell'angoscia. L'angoscia è una situazione che ci può prendere in alcuni momenti di vita, quindi c'è dentro i salmi, non bisogna trasformare in disperazione, ma l'angoscia va vissuta davanti a Dio, bisogna dirglielo che sto angosciato e che mi aiuti in questa situazione. Davanti a Lui effondo il mio lamento, al tuo cospetto sfogo la mia angoscia, mentre il mio spirito viene meno. Il mio spirito viene meno, ma tu conosci la mia via. È bellissimo. Il mio spirito, tu conosci. Nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. Sto nei guai. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. Non c'è per me via di scampo, nessuno a cuore della mia vita. Avete visto le persone che stanno sempre... Non mi vuole bene nessuno, hanno dimenticato tutti quanti. Ecco, sto tanto triste, mi sento tanto solo. Sta scritto qua! Prendi il Salmo 142 e dici: guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, non c'è per me via di scampo, non mi si fila nessuno, nessuno ha cura della mia vita, sono il perfetto Calimero, non mi vuole bene nessuno. Ecco, c'è scritto. Allora, che facciamo in questa situazione? Prendiamo una pistola e ci spariamo la tempia? No! Io grido a te, Signore, dico: sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei viventi, non mi vuole bene nessuno, non fa niente, ci stai tu, sei tu la mia sorte. Sono persone che hanno tante creature, ecco, tipo il vecchio Vasco, e poi scrivono come canzoni: siamo soli, ve l'ho detto da tante volte, ma come sei solo? C'è 500.000 persone che dicono, che scrivono iscrizioni: Vasco, tu sei il mio Dio, come sei solo? 500.000 ce ne stanno lì, com'è che canti quella canzone? E invece chi è solo non sono manco per niente, perché un eremita sta molto più in compagnia di Vasco Rossi, sta tranquilla. Non sto scherzando, è così, ecco. Allora, quindi non si prende la rivoltella, ma si dice: io grido a te, Signore, sei tu il mio rifugio. Tu il mio rifugio, non le creature, non si cerca conforto nelle creature, ma in Dio. Sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica, però ho toccato il fondo dell'angoscia. Guardate che espressioni, sono veramente stupende. Salvami dai miei persecutori, ce l'ho tutti contro. Queste sono preghiere per Don Leonardo, perché sono di me più forti. Don Leonardo D'Ascenzo, non è Don. Strappa dal carcere la mia vita, dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome, i giusti mi faranno corona quando mi concederai la tua grazia. Guardate che sono stupendi alcuni salmi. Vogliamo andare a vedere che nel Salmo 21 c'è scritta tutta la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Chi di voi partecipa, come spero tutti facciate, alle liturgie della settimana santa, che se l'ha sentito tutto, questo viene proprio letto tutto il venerdì santo, Salmo 21 nel testo masoretico, ma il 22 nella nostra numerazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono proprio Gesù, non è Gesù in croce. Voi sapete, se voi prendete oggi la liturgia delle ore, vedete che prima di ogni salmo c'è l'antifona. L'antifona è quella che dà il là al salmo. A volte l'antifona, in alcuni salmi, chi prega la liturgia delle ore lo sa, consiste nel primo versetto del salmo. Tanto è vero che quando l'antifona coincide col primo versetto, il salmo si comincia a dire dal secondo. Quindi non è che Gesù Cristo in croce, come qualcuno di sta, certo, questo è un salmo di sofferenza, ma finisce in gloria, adesso lo leggiamo, non è il salmo della disperazione. Beh, Gesù Cristo in croce ha sofferto l'abbandono del Padre, una sofferenza inaudita, ma non era disperato, come ha detto qualche teologo matto del secolo scorso, assolutamente, perché la disperazione è un peccato gravissimo. Quindi il fatto che i Vangeli mettano in bocca queste parole a Gesù vuol dire che lui stava cominciando a recitare questo salmo, cioè a dire: stava attenti che questo che sta scritto qui si è compiuto in me in maniera perfetta. E infatti ci sono delle espressioni, per esempio, lo leggiamo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovi riposo, eppure tu abiti la santa dimora, tu dote di Israele. Già qui in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati, a te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. Quindi la speranza di chi confida in Dio non è mai delusa. Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo, mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Se prendete i Vangeli, dicono, passando sotto la croce lo schernivano e scuotendo il capo dicevano proprio ad litteram: si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se suo amico. Se tu sei figlio di Dio, scendi che tutti ti crederemo. Hai detto che Dio è tuo padre, quindi lui ti salverà da questo orribile supplizio che è la croce, no? E poi però continua: sei tu che mi hai tratto dal grembo e mi hai fatto nascere sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano. Poi continua: mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere, è arido come un coccio il mio palato, ho sete, la mia lingua è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, continua sotto, posso contare tutte le mie ossa. Mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Proprio parola per parola, momento per momento. Va bene, e poi però finisce in gloria. Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma il suo grido di aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore e Gli domina su tutte le nazioni. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere, e io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Il breviario antico, il Salmo 21, si dice tutti i venerdì, tutti. Allora, prima, quella che si fa alle 6. Vediamo qualcuno dei salmi sapienziali, soprattutto il Salmo 1, che è un salmo bellissimo, è un altro che sta in pole position tra i miei prediletti, che è proprio l'overture e il programma di tutti i 150 i salmi. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, ecco, numero 1. Non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti. Già questi tre è finito. Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Quindi, comincia con la beatitudine dell'uomo pio. Quindi, non bisogna seguire il consiglio degli empi, cioè delle persone senza Dio. Non si seguono i consigli delle persone senza Dio. Non si indugia nella via dei peccatori, non si frequentano le cattive compagnie, non si siede in compagnia degli stolti. Chi sono gli stolti? Andiamo a vedere chi sono gli stolti. Andiamo, che sono gli altri salmi sapienziali. Salmo 14, lo stolto pensa, non c'è Dio. Salmo 53. Lo stolto pensa, Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene. Sono due salmi quasi in parallelo. Quindi nella Bibbia è scritto che chi è stupido pensa che Dio non esiste. Tante volte ve l'ho detto, perché che Dio non esiste è assolutamente impossibile per una persona che sia intelligente, con quello che noi vediamo intorno. Quindi è proprio della... Infatti i sapienti, chi sono i sapienti? Sono i filosofi. Tutti i filosofi sapienti, i primi filosofi, anche la storia della filosofia greca, per chi l'ha studiata, cercavano l'origine del mondo. Cercando l'origine del mondo cercavano Dio, anche se lo chiamavano il Logos, lo chiamavano l'archetipo, lo chiamavano il grande architetto, il grande architetto veramente lo chiamavano i massoni, lo chiamavano in qualche altro modo, insomma, eccetera, no? Perché che ci sia qualche intelligenza che presieda e che preordini il cosmo ordinato che noi conosciamo, è impossibile che non ci sia. Non so se avete sentito qualche intervento dove c'è stato uno che si è divertito a fare delle statistiche, che praticamente, questo era uno scienziato, dice che l'universo si sia nato dal caso, ha tante probabilità quanto questa, che un gatto impazzito si metta su un pianoforte e soppettando da pazzo sul pianoforte suoni, che cos'è, la nona di Beethoven, la nona o la quinta, la nona, no? Ma guardate che adesso non ho tempo di farvelo vedere, ma ci ho fatto proprio dei calcoli matematici per giungere a questa cosa, perché che l'universo, mi pare che c'era 1 su 200 miliardi di miliardi di miliardi di possibilità che possa essere una cosa attendibile, una cosa del genere, insomma. Quindi figuriamoci. Poi leggiamo uno dei salmi che raccontano le opere di Dio. Sono molto lunghi questi, e per esempio, il 104 racconta gli splendori della creazione, cioè le meraviglie che Dio ha operato nella creazione del mondo. È molto bello. Mentre il Salmo 105 ed anche il 106 raccontano la storia di Israele. Soprattutto partono sempre da Abramo, passano per Mosè e per l'uscita soprattutto dall'Egitto, che l'uscita dall'Egitto è stato il fatto assolutamente fondante della vita e della salvezza di Israele. Sono molto lunghi questi salmi, per cui non è il caso di leggerli, perché volevo un attimo, ecco, affrontare quelli che vi possono scandalizzare, cioè i salmi imprecatori, che sono l'83 e il 109. quelli che hanno tolto, o si trovano sulla Bibbia? Certo, sul Salmo 83 e il 100 non si trovano, nella nuova liturgia delle ore, non ci sono. Allora, prima ve li leggo e dopo c'hanno una spiegazione, facilissima poi tra l'altro per chi c'ha un minimo di fede. Dio non darti riposo, non restare muto e inerte, oh Dio, vedi, i tuoi avversari fremono, i tuoi nemici alzano la testa, contro il tuo popolo ordiscono trame e congiurano contro i tuoi protetti. Hanno detto, venite, cancelliamoli come popolo e più non si ricordi il nome di Israele. Hanno tramato insieme concordi, contro di te hanno concluso un'alleanza. Le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, Geba, l'Ammon e Amalek, la Palestina con gli abitanti di Tiro, anche Assur è il loro alleato e i figli di Lot prestano a forte. Trattali come Madian e Sisara, come Yabin al torrente di Chison, essi furono distrutti a Endor, diventarono concime per la terra. Rendi i loro principi come Oreb e Zeb, e come Zebe e Salmana, tutti i loro capi. Essi dicevano, i pascoli di Dio conquistiamoli per noi. Mio Dio, rendili come turbine, come pura dispersa dal vento, come il fuoco che brucia il bosco e come la fiamma che divora i monti. Così tu inseguili con la tua bufera e sconvolgini con il tuo uragano. Copri di vergogna i loro volti, perché cerchino il tuo nome, Signore. Restino confusi e turbati per sempre, siano umiliati e periscano. Sappiano che tu hai nome, Signore, tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. Questo è soft, eh? Poi c'è quell'altro che è hard. Questo è... Ne leggiamo qualche stralcio. Dio della mia lode, non tacere, perché contro di me si sono aperte la bocca dell'empio e dell'uomo di frode. Parlano di me con lingua di menzogna, mi investono con parole di odio, mi combattono senza motivo. In cambio del mio amore mi muovono accuse mentre io sono in preghiera, mi rendono male per bene e odio in cambio di amore. Mo comincia, Suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra, citato in giudizio risulti colpevole, e il suo appello si risolva in condanna. Pochi siano i suoi giorni, il suo posto lo occupi un altro, i suoi figli rimangano orfani, e vedova sua moglie. Vadano raminghi i suoi figli, mendicando, siano espulsi dalle loro case in rovina. L'usuraio divori tutti i suoi averi, e gli estranei facciano preda del suo lavoro. La sua discendenza sia votata allo sterminio, nessuno gli usi misericordie, nessuno abbia pietà dei suoi orfani. Dalla generazione che segue sia cancellato il suo nome. Ad avanti? È tutto così. Così. Chi l'ha scritto questo? Questo l'ha scritto Davide. Vedete i versetti sotto, al maestro del coro di Davide, Salmo. Grosso problema, che facciamo? Li togliamo dal salterio o li lasciamo? E se li lasciamo, come si concilia questo con Gesù che ha detto, amate i vostri nemici, perdonate, pregate per i vostri persecutori, chiedete grazie, eccetera, eccetera. Che vogliamo fare? Ma possibile, mo dico una parola che ha detto Gesù, siete anche voi così privi di intelletto come questi sciocchi. I padri della Chiesa hanno risolto subito. Con chi c'è l'autore del Salmo? Chi sono i nostri nemici? Chi sono i nostri avversari? Gli uomini? Ma basta uno si legge San Paolo. La nostra lotta non è contro creature di carne e di sangue. Si possono lanciare gli accidenti al demonio? Certo. A oia. Alla mattina e alla sera. Quindi evidentemente queste non sono parole lanciate contro i nemici visibili, perché anche dietro i nostri nemici visibili, dietro i nostri torturatori, dietro i nostri aguzzini, dietro i nostri detrattori, calunniatori, maldicenti, eccetera, c'è sempre il demonio. Che c'è una grandissima sapienza in questi salmi, perché innanzitutto un insegnamento implicito, cioè quando vedi uno che è cattivo, non fermarti, perché l'uomo non è mai completamente cattivo. L'uomo può cambiare, Io ho avuto delle persone molto, i miei grandi nemici sono diventati dei grandi amici, persone distanti che sono diventate vicine, e ho avuto grandi osannatori che adesso stanno in prima linea tra i miei fucilatori. L'uomo è mutevole, cangiante e cambia, quindi è ovvio che Gesù dice amate, pregate per i vostri persecutori, perché lì sono possibile che si convertano e si salvano, anzi la tua carità li può salvare. Chi sono gli inconvertibili? Inconvertibili sono i demoni, e i demoni bisogna soltanto pregare al Signore che li fermi e che li punisca, che li cacci nell'inferno. Ma non c'è scritto che la Madonna schiaccerò la testa e tu li preverai? Non preghiamo San Michele e tu, o principe della milizia celeste, ricacciano nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni e cacciagli quella spada dentro la gola e fagliela magnà? Questo non c'è proprio scritto così nella preghiera, ma è implicito, insomma, no? Quindi c'è un grandissimo insegnamento in questi salmi. Quindi il sospetto che viene, ma è un sospetto dettato dal fatto che Don Leonardo si deve confessare, pure se è confessato ieri, perché sta facendo pensiero cattivo, è che non ci credono più tanto nel diavolo, e quindi se non ci credi nel diavolo è ovvio che tu non puoi lanciare questi accidenti contro le creature visibili, perché se no si fa peccato, si fa, no? Ecco, quindi o ci credi nel diavolo e gli lanci le imprecazioni contro il diavolo, oppure non ci credi e allora devi togliere i salmi. Oppure c'è un'altra spiegazione che qualcuno me la dovrà dare, insomma. Me la dai tu? Ecco. A questo punto, dopo che abbiamo risolto le grandi aporie dei salmi imprecatori, chiudiamo in bellezzissima. Ecco, con i salmi che esprimono il motivo per cui siamo stati creati, la ricerca di Dio, il desiderio e l'amore di Dio. Per esempio, un altro dei miei preferiti in assolutissimo, che è proprio meraviglioso, che l'ho anche citato nel ricordino di quando sono diventato prete. E ho citato queste parole di questo salmo. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, sottoscrivo, la mia eredità è magnifica. Questo è uno stralcio del Salmo 16, che comincia così. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue. Non me ne vado appresso agli idoli del mondo, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Bellissimo. Mia parte di eredità e anche mio calice, perché il Signore ci dà un po' di crocette salutari in questa vita. Bellissimo. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte, nelle tue mani è la mia vita. Intanto dice, ma padre qua e là, padre che? Tutto concorre al bene, la nostra vita è nelle mani di Dio, tutto quello che ci accade è sempre sotto il suo beneplacito. Se ci devono squartare e scannarci e farci morire martiri così, se Dio questo ha deciso, questo vivremo, che problema c'è? Se nessuno ci deve scannare e dobbiamo morire al letto nostro, pure se vengono tanti brutti e cattivi aizzati dai demoni, nessuno ci tocca. Ma è così. Ci stanno alcune, voi sapete, alcune vergini martiri che hanno provato a violentarle prima della fine. Sono rimasti impietriti, Dio li ha pietrificati. Perché attenzione che Dio una cosa non la fa toccare, eh? Non fa toccare la purezza. Voi pensate che a Gesù Cristo è stato fatto di tutto, meno due cose, che volevano fargli, dicono i santi, e non gliel'hanno fatte. Uno, essere crocifisso completamente nudo. E due, racconta più di qualche mistico, che la notte in cui è stato carcerato volevano fargli delle porcate a sfondo sessuale. Non gli è stato permesso. Gli hanno fatto tutto il resto, tutto il possibile e l'immaginabile. Questo no però. L'hanno umiliato, perché l'hanno comunque spogliato per flagellarlo, spogliato per crocifiggerlo, ma non del tutto. Quindi, nonostante gli hanno fatto da tutto e di più, pure la Madonna gli hanno fatto tutti i colori, ma la Madonna nuda non l'ha mai vista nessuno, nessuno, d'accordo? E se qualcuno si fosse azzardato dagli vicini sarebbe stato fulminato seduto a stante, d'accordo? Quindi non dobbiamo temere, perché signore, altri, Sant'Alfonso è morto a oltre 90 anni al letto suo, è stato un grandissimo santo. Padre Pio, uno dei più grandi santi della storia, non è morto martire. Voi direte, ha fatto il martire per tutta la vita, sicuramente, ma non è morto come sbranato da un leone, insomma, no, perché non era per lui. Quindi, nelle tue mani è la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità. Poi, ancora, benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Quando viene qualche ispirazione notturna, parlate sempre col padre spirituale, perché lì potrebbe esserci la voce di Dio. Non sto scherzando, eh? Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Dobbiamo farlo tutti, quello che Lui vuole. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Poi di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Sentite, i prodromi del Magnificat. E anche il mio corpo riposa al sicuro, perché morirò, ma non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Questo vale soltanto per Gesù e per la Madonna, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Poi ancora, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Questi sono i salmi, questi qua. E poi c'è un altro molto bello, chiudiamo magari con questo, c'è il Signore il mio pastore, sarebbero tanti da leggere, un altro molto bello che è anche un canto del rinnovamento, è come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio, l'anima mia ha sete di Dio, esprimono la ricerca e il desiderio d'amore di Dio, Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? E poi continua, perché ti rattristi anima mia? Ecco, la tristezza, perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio, che poi ritorna, eccetera, eccetera. Va bene, ci fermiamo, questo è un piccolo straccio dei salmi, però se fosse venuta voglia di dire un pochino di salmi, in sagrestia ci stanno i libretti piccoli, con la liturgia delle ore per cominciare a dire le lodi e vespri. Comunque i salmi sono delle preghiere stupende, tutta la sapienza esistenziale anche della nostra esistenza è depositata qui ed è trasformata in preghiera da rivolgere al Signore, per cui a un certo punto del nostro cammino bisogna imparare a familiarizzarci e pregare con i salmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.